Calcoli della nonna Dada. En français, s'il vous plaît. Les calculs de la grand-mère Dada. Bravo, c'est correct. C'est très bien, c'est joli. Les calculs de la grand-mère Dada. De la grand-mère Dada. È più corretto. Eh oui. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. E un saluto da Drago. Oggi partiamo a strombattuto, come diceva uno che conoscevo. Diceva che pensava che fosse tipo partire con una tromba alla carica, no? E quindi partiamo a strombattuto. Invece si dice, adesso lo dico così magari all'ascolto, si dice spronbattuto. Lo sprone ha qualcosa a che fare con i cavalli, insomma. Si spronano i cavalli che corrono più in fretta. Okay. Comunque, partiamo con una riflessione seriosa sui bambini nati dopo il 2006, quelli della cosiddetta digital generation. Bella forza, digital generation. I bambini toccano tutto. Ma sì, ma non per quello, è perché anche quelli piccolissimi, ci sono il 19% che sanno usare smartphone, dispositivi touch, però sono capaci a fare tutte queste cose, ma non sanno né allacciarsi le scarpe né andare in bicicletta e fare quelle cose lì. Mia figlia va in bicicletta con la Wii. Ah, bene. Per allacciarsi le scarpe? Usa la Wii. Ah, anche quello. Sì. E cosa succede? Poi i lacci Ma non hanno lacci le scarpe dei bambini d'oggi, Drago. Hanno, che ne so, piuttosto hanno le rotelle o il GPS, il navigatore. Sì, le scarpe col GPS. Certo, il bambino, la bambina, inserisce la destinazione e le scarpe portano il bambino o la bambina proprio lì. Mi prendi in giro perché non certo, ho figli. Certo, ti prendo in giro, Drago. Ma pensa che in alcuni casi questi nativi super digitali sanno usare bene il PC. Però poi quando sono sul VC hanno dei problemi. Vabbè, ma il VC mica è touch. Usi delle altre cose, mica usi le mani. Ma quando devi tirare l'acqua, ad esempio. Ma se la fai fuori, hai voglia di tirare l'acqua. Vabbè. State ascoltando un programma offerto da Wunderwaffer. La storia del Wunderwaffer, seconda puntata. La ricetta del Wunderwaffer, ormai sottoposta allo scempio di ignobili imitatori, viene riscoperta e riportata in auge nel 1943 dal dottor Albert Hoffman e diventa il core business dell'azienda Sandoz, culla, oltre che di tanti altri famosi miti svizzeri, dell'ovo maltina. No, ma Hoffman è quello dell'LSD. Non so, forse. Ma come non so? Il gusto ed energizzante di Wunderwaffer deriva dalla sapiente unione di zenzero, vaniglia, chiodo di garofano, wafferina, segale cornuta e zucchero. Un ultimo ma essenziale ingrediente è gelosamente tenuto segreto. La formula è custodita da solerti bodyguard svizzeri tra i campi di Sion. Si ricorda la celeberrima scena del film Agente 007 Licenza di Uccidere del 1962 in cui Ursula Andress in bikini esce dal mare sgranocchiando un Wunderwaffer. Ma non è vero, ma è una balla questa. Ma come Ursula Andress con il Wunderwaffer? Dai, la storia. Quale storia? Fine della seconda puntata! La storia di Wunderwaffer tornerà mai più. Credo. Speriamo. Wunderwaffer. Ah, ein Stadtmensch! Sì, glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Wunderbar. Aber das stimmt nicht. Wir haben das frisch erfunden. Da ist Minze drin. In einer knackigen Füllung. Ein zarter Schokibund. Wunderwaffe, Wunderwaffe. Aber Vorsicht! Wunderwaffe. Ist cool, Ben. Aber Vorsicht! Ist cool, Ben. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Wunderwaffe. Buono Tito, allora, uscia, Fritz, Strunz! Strunz, cosa fai? Trapattoni? Ma no, povero okay. Tito! Sono giorni che Tito il tutor è inquieto. Ma no, ma è colpa nostra, perché noi andiamo troppo spesso fuori tema. Ma no! Povero tutor, star dietro a tutto si stressa, No, ma guarda che è la sua intima natura di bassotto geure. È quella che non può venire nascosta e gli viene fuori così. Ma madonna, la sua intima natura, cosa sarà mai? Purtroppo è così, Drago! Ma dai, ma i bassotti geure non esistono, la tua invenzione lo dici tu. Così, fantasiosa. Lo no? dici tu, prova ad averne uno e poi mi dici. Ma mi racconti sempre delle gran dormite che fate abbracciati, è proprio feroce questo bassotto geure, bisogna aver paura. Tito no? è buono e affettuoso solo se segui alcune regole, sì. Ma se per caso te ne dimentichi le conseguenze possono essere disastrose, ad esempio se gli do da mangiare dopo mezzanotte. Sì, Tito, il simpatico bassottino innocuo che conosciamo, se mangia dopo mezzanotte si trasforma in un temibile bassotto geure, vero? Come fai a sapere? Ma non ci così? Credo nemmeno se lo vedo. Dai, guarda che Spielberg ne ha appena fatto un film su sta roba. Spielberg, chi Spielberg? Spielberg, Steven Spielberg. Un film su Tito. Un film su Tito. Sì, esce tra poco, si intitola Geure. Steven Spielberg presents... Geure. È perché in inglese, in americano, Geure. E questo qui è il fish. Ecco, questo è il trailer. Ci sono un paio di cose che ho dimenticato di dirvi. Sono molto importanti. Numero uno, lui odia la luce forte, l'avete visto. Quindi bisogna tenerlo lontano dalla luce del sole. Altrimenti morirebbe. Come? Numero due, tenerlo lontano dall'acqua. Non bisogna mai dargli acqua da bere. Ma come? E in nessun caso mai fargli il bagno. Ah no, ma probabilmente la cosa più importante è che dopo mezzanotte non deve assolutamente mangiare. Capito. Ma come? Sì, perché sennò si trasforma in geure. Cioè lui è bassotto, ma poi... E mangiare prima di mezzanotte. Ha sempre fame quindi prima di mezzanotte. Ma cosa? Non lo so. Cos'è? Sarà un guarda, guarda che roba. No, vabbè, vedi, io te l'ho detto, ma come sti film, mica è un trucco. Ma non cioè... si può vedere, ma come non si può vedere. Guarda cosa fa! Ma cappa! Guarda! Ma che schifo! Lo sprana! Ma non si può, ma. Directed by Steven Spielberg. Andiamo a scoprire insieme gli animali. Andiamo! Ma adesso cos'è? Dobbiamo assorbirci le lezioni sugli animali. Cosa siamo? Siamo no all'asilo, Kappa, dai. Cos'è sta roba? Allora, siamo all'asilo. Pet language. Ma qui siamo in missione, non è che siamo zitto, qui a fare. Sta attento. Guarda che bisogna anche partecipare, zitto, dai. Gatto. Miau. Cosa fa? Te l'ho detto, bisogna partecipare, lo diceva sempre Gaber. Libertà e partecipazione. C'entra Gaber. Cane. Bau bau. Ecco. Sì, vabbè. Ma se Gaber sapesse a che cosa ci tocca partecipare, si rivolterebbe nel box doccia. Nel box doccia. Sì, perché io Gaber me lo immagino sempre lì che si fa lo shampoo, no? Anche da morto. Mucca. Drago, per favore. Ma piantala, ma poi c'ho un'app sul telefonino e fa le stesse cose. Pecora. Mimmi. Vedi, questa la faccio bene. Mimmi. Cavallo. Ma questo non ti viene. Come no? Bene. Asino. Sì, ma quale asino? Quale asino? Il gioco dell'asino di Buridano. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Vado con questo e vado con questo. Alla fine rimane lui e muore di fame. È morto. Tutti nelle sale questa settimana per vedere il nuovo film di Spielberg? Non credete a quello che leggete. Il titolo non è quello che vi dicono. Il titolo vero del nuovo film di Spielberg è Geure. Senti, quindi è Geure. Quattro volte. Sì, è perché in italiano. Non è in inglese, è in italiano. È come Joe lo squalo. Joe nel senso non Joe. No, Jav. Non è Javs? Ah, forse.